Signor Maurizio, faccio questa qui che è prima in classifica in Catalogna. Iacchetti, lei è un megalomane, si è montato la testa. Ma chi vuol fare in Catalogna adesso? Prima su avanti. Sì, signor Maurizio, prima in classifica. Vabbè, la vuol fare proprio. La faccio? No, se vuole non la faccio. Ma allora, la faccia, tanto che vuole che sia, la faccia. No, allora la faccio, Belador era pronto alle 5, senza neanche aver preso il suo tè. Il torero con un gran mal di testa, un'aspirina forse gli passa e vabbè. Matare un toro non è più un grosso problema, tre banderilla se gli spacchi già la schiena. Ma Belador non sembra rassegnato, ogni minuto Belador è più incazzato. Paganti alla corrida vedono un toro diverso in questa sfida. 600 chili di nervi scattanti, due occhi enormi di rabbia strafottenti. Il matador non sa più che cosa fare, non ha più lance, banderillas da infilzare. Su Belador, resisti non morire, urlano i tori, i suoi compagni nel corridoio. Per non essere ammazzato. Adesso il pubblico è in piedi nell'arena e rumoreggia come fosse un fiume in piena. E Belador che corre come un forsennato, sangue dal collo perde a fiotti sul selciato. Ai 10.000 paganti nell'arena spetta il giudizio su questa gara oscena. Pollice verso, ma per il toreador, pollice alzato per il grande Belador. Il torero fugge tutto pieno di vergogna e Belador galoppa come una cicogna, come una cicogna. Due ore e venti per fargli capire che aveva vinto il diritto a non morire. Adesso è libero, famoso e senza affanni, farà l'amore per il resto dei suoi anni. Ma Belador non lo convince la sua sorte, agli occhi tristi come quelli della morte.